Ad essere sinceri, i desideri ti confondono le idee, sono come malattie. Ma se ci credi, oggi più di ieri, puoi realizzarli anche se non sarà facile. Oltre i confini del mare c'è, mentre c'è l'acqua ed il sale. Poi esce il silenzio al suo posto, il vento sfiora il tuo mento. Questa magia solo il mare sa, riflettere sulle onde mie. Spero il tuo desiderio, il regalo più atteso. It's just for me and you. Oh baby, not anymore. Don't take it wrong, stand by me, maybe it's true. Oh baby, not anymore. Don't take it strong. Davvero, è spesso il tuo desiderio, ora correrà con te, inseparabile, un legame sincero, tese d'amore il suo telo, sarà indissolvibile, incancellabile. Oltre i confini del mare c'è, mentre c'è l'acqua ed il sale, poi lascia il silenzio al suo posto. Il vento sfiora il tuo mento, questa magia solo il mare sa, riflettere sulle onde mie. Spero il tuo desiderio, il regalo più atteso. It's just for me and you. Oh baby, no sin more. Don't take it wrong, stand by me, maybe it's true. Take it strong. Un naufragare sarà un gioco per te.